Il 14 luglio del 1944 la settima GAP subì una grave perdita. Il comandante del distaccamento della città, Massimo Meliconi, detto Gianni, venne ucciso in un conflitto a fuoco con un gruppo di ufficiali della GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana. Con lui c'erano altri partigiani. Gianni gli ordinò di mettersi in salvo e ne coprì la ritirata. Per 5 ore, da solo, tenne testa ai fascisti e quando finì le munizioni si difese tirando delle pietre. La sua strenua resistenza venne interrotta da una raffica di mitra che lo colpì a morte. Per ricordarlo, la più importante formazione partigiana della città prese il suo nome e si chiamò Settima GAP Gianni. Nei giorni successivi l'uccisione di Meliconi si intensificarono le retate di Camicie Nere e SS. Diversi gappisti furono catturati e decine di antifascisti vennero arrestati. Ogni notte, dal carcere di San Giovanni in Monte, qualche prigioniero veniva prelevato. La sua destinazione era o il campo di concentramento o il plotone di esecuzione. Per rompere il pesante accerchiamento, cercando di invertire la rotta, il CUMER, il Comando delle Forze Militari della Resistenza, diede ordine ai partigiani della Settima GAP di studiare un piano d'attacco al carcere di Bologna per liberare il maggior numero possibile di detenuti politici lì rinchiusi. Molti consideravano questa ipotesi impraticabile. Il carcere ha guardato a vista giorno e notte e oltre ai turni di guardia dei secondini, all'esterno c'era in permanenza una pattuglia di ronda composta da repubblichini. Vennero vagliati e discussi vari piani, furono analizzati tutti i pericoli e le difficoltà. Le visite parenti furono utilizzate per prendere i contatti con i compagni incarcerati. Venne agganciato un brigadiere degli agenti di custodia e si recuperò la pianta interna del vecchio convento. All'interno della prigione venne fatta filtrare una voce ai referenti dell'organizzazione dei detenuti. Se si fosse riusciti a fare il colpo per rendere più agile l'operazione all'interno, come segnale, attraverso i pacchi dei familiari, sarebbe arrivato 1 chilo di pomodori. Per ragioni di segretezza, quel segnale non giunse mai. Invece, alle 10 di sera del 9 agosto, i partigiani diedero una dimostrazione di grande audacia e di temeraria lestezza e forse ebbero anche un bel po' di fortuna, dato che quasi tutte le cose girarono al meglio. La squadra degli assalitori partì da una base della Bolognina. Erano in 12 su 2100, mimetizzate molto bene. I partigiani avrebbero dovuto farsi scudo dell'oscurità, agendo nel massimo silenzio e, soprattutto, con la massima rapidità. 4 erano in abiti civili e dovevano passare da ribelli acciuffati durante una retata. Erano Paolo, Italiano, Tempesta e Terremoto. I 5, Aldo, Ezio, Romagnino, Max e Walter, indossavano le divise delle Brigate Nere. Gli altri 3, Bill, Napoli e William, avevano uniformi tedesche. Uno di loro era vestito da ufficiale e parlava crocco. Quando arrivarono al portone del carcere, scesero in fretta dalle auto e quelli in camicia nera si misero a fare un po' di teatro, cominciando a offendere e strattonare i 4 prigionieri. Il sosia dell'ufficiale tedesco giocò a fare il burbero e con la durezza dei verbi scanditi all'infinito annunciò che doveva consegnare i 4 banditen da poco catturati. Con tono aspro e secco ordinò di aprire il portone perché dovevano dare in custodia gli arrestati. Dopo qualche incertezza, gli ausiliari del posto di guardia presero per buona la versione dei finti tedeschi, per cui suonarono nel modo stabilito per dare il via libera all'accesso. Ricevuto il segnale convenzionale, all'interno, senza sospettare di nulla, aprirono tranquillamente il portone. Fu a quel punto che i secondini si trovarono puntati contro i mitra e le pistole di 8 partigiani. Altri 4, Aldo, Romagnino, William e Max, rimasero fuori con i repubblichini di ronda. Il piano prevedeva che questi sarebbero stati disarmati all'uscita dei compagni. Quando venne intimato «mani in alto!», non ci furono difficoltà a bloccare gli agenti in servizio. Subito dopo vennero immobilizzati gli impiegati dell'ufficio matricola, dove era stato segnalato un telefono. Sotto la minaccia delle armi, mentre un partigiano tagliava i fili del telefono, 4 agenti furono costretti alla resa. Per non saper né leggere né scrivere, anche un detenuto che svolgeva funzioni da scrivano fu fermato. Stabilizzata la situazione al piano terra, gli antifascisti partirono di corsa verso la terza sezione, dove erano custoditi i politici. Le informazioni che i ribelli avevano ricevuto risultarono precise, per cui nei corridoi del carcere si mossero con grande padronanza. dopo essersi impossessati delle chiavi, cominciarono, senza troppa enfasi, ad aprire le porte delle celle, tra cui anche quelle dei detenuti comuni. Questo in modo tale da creare più confusione possibile e permettere, con meno rischi, l'evasione dei prigionieri politici. A dire la verità, vedersi arrivare in cella una pattuglia di militi in divisa fascista creò un bel po' di patemi a diversi detenuti. Era purtroppo una tragica normalità assistere all'arrivo in San Giovanni in Monte di squadre di SS e di repubblichini per prelevare persone incarcerate, che poi non sarebbero più tornate. Quella sera i due ragazzi che entrarono nelle celle vestiti da fascisti istintivamente si qualificarono come partigiani, ma quasi nessuno credette alla messa in scena. Solo quando si fece avanti Ezio, faccia conosciuta nel mondo della resistenza, chi fino ad allora aveva opposto riluttanza ad uscire tirò un sospiro di sollievo e con quello che aveva addosso cercò rapidamente di mettersi in salvo. Tra i detenuti comuni liberati alcuni volevano picchiare i secondini, ma i gappisti si opposero a ogni forma di linciaggio. Del resto, la liberazione dei comuni fu decisa col solo scopo di creare casino in città. Con la loro fuga di massa, squagliandosela in tutte le direzioni, avrebbero ostacolato le ricerche della polizia e in questo modo molti compagni avrebbero potuto raggiungere i rifugi di montagna. In pochi istanti, il carcere si era trasformato in una bolgia. Molti agenti erano stati rinchiusi nelle celle, avevano una paura della Madonna e non erano in grado di compiere il minimo gesto. A sorvegliarli rimase solo Terremoto. Ad alcuni compagni detenuti che avevano partecipato all'esperienza della lotta clandestina vennero distribuite delle pistole per renderli autonomi. Molti dei fuggitivi, dopo aver sceso di corsa le scale, si dovettero fermare al primo cancello interno, che era chiuso. Non avendo le chiavi, un gruppo di ribelli si diresse nella camerata dove erano state rinchiuse le guardie. Qui un agente venne prelevato e, usando le sue chiavi, gli venne ordinato di aprire il cancello. Arrivati all'ultima porta prima dell'uscita, a William e agli altri due compagni che erano rimasti all'esterno della prigione venne dato il segnale. Il loro compito era stato quello di intrattenere la pattuglia dei brigatisti neri, ma adesso era giunto il momento di disarmarli. La cosa però non andò liscia. Un repubblichino si arrese subito, un altro invece si rifiutò di alzare le mani. Con un gesto fulmineo estrasse la pistola e sparò, ferendo gravemente William alla gamba destra. La risposta dei gappisti fu data in tempo reale, una raffica di mitra che lo fece secco. Ritrovata la libertà, alcuni dei prigionieri più conosciuti vennero fatti salire su una macchina per essere portati in una base della Bolognina. A copertura della ritirata, tre del comando rimasero per un po' a presidiare il portone dell'entrata. Se vi fosse stato un tentativo di inseguimento, il loro scopo era di far perdere tempo ai nemici. L'ultimo ad abbandonare il carcere, quando tutti se ne erano già andati, fu Terremoto. Purtroppo, a causa della sparatoria all'esterno, non fu possibile liberare nessuna delle donne incarcerate. Per questa ragione, proprio dal reparto femminile, mentre l'azione era in corso, venne fatta una telefonata d'allarme al famigerato capitano Tartarotti, tristemente famoso per essere un torturatore di partigiani. Nell'occasione, il caporione fascista, a cui era stato riferito che gli assalitori erano quasi un centinaio, dimostrò tutto il suo scarso coraggio. A chi gli chiedeva di accorrere sul posto, rispose che purtroppo la sua squadra di polizia ausiliaria non poteva intervenire, dato che i suoi automezzi erano privi di carburante. In realtà, quella sera, i serbatoi erano pieni, e se qualcuno tra i fascisti avesse avuto la decenza di raccontare la verità, avrebbe dovuto dire che Tartarotti se l'era fatta sotto. Del resto, lui il duro lo faceva quando i partigiani li aveva davanti legati o incatenati. Affrontarli a viso aperto era uno scenario a cui non era abituato. L'interazione fu rapidissima ed ebbe un'ottima riuscita. Dopo 15 minuti tutto era finito e si concluse con un solo ferito. In una città blindata, la resistenza aveva fatto scappare tra politici e comuni quasi 400 detenuti. Si trattò di un'evasione di massa da manuale che permise a tanti partigiani di ritornare ai loro gruppi di combattimento. Fu anche micidiale per le conseguenze che produsse sul morale dei tedeschi e delle camicie nere. Una beffa più grande, i nazifascisti non la potevano subire. Le autorità repubblichine rimasero frastornate. I gappisti, con la loro azione impossibile, avevano evidenziato le tante falle del sistema repressivo. Nel rapporto del direttore dell'istituto di pena venne scritto che 50 partigiani erano penetrati a San Giovanni in Monte sparando all'impazzata, mentre all'esterno un centinaio di banditi aveva circondato l'edificio usando carri armati e autoblindo. Alla direzione generale della polizia giunse invece un resoconto del capo della provincia in cui si affermava che la squadra partigiana era composta da una quarantina di elementi, giunti sul posto con due autocarri con targa tedesca. Nella relazione del questore al governo si parlò di 70 partigiani che avevano fatto scappare 340 detenuti. In realtà gli uomini che avevano partecipato all'azione erano 12, di cui soltanto 6 erano armati di mitra, gli altri avevano semplicemente la pistola. Tra i caporioni fascisti ci fu uno scaricabarile generalizzato, ognuno dava la responsabilità dell'accaduto all'altro, la GNR attaccò il questore se la prese con le brigate nere, qualcuno tirò in mezzo i tedeschi, alla fine la colpa fu data alla direzione del carcere. Rispetto all'esterno invece i mussoliniani cercarono di tenere tutto sotto silenzio, del resto dopo una figuraccia simile non c'era proprio niente da ostentare, l'unico indizio di quanto successo uscì pubblicamente 3 giorni dopo in un microscopico riquadro sul resto del Carlino. Promettendo comprensione, si invitavano gli evasi a costituirsi, come c'era da aspettarsi. L'esortazione non produsse proseliti, l'appello sostanzialmente andò inevaso.